In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice il vecchio è gradevole. Gesù sta parlando con gli scribi e i farisei e li spiazza in tutti i sensi. Gli scribi e i farisei ragionano secondo le loro tradizioni e cercano di trovare sempre qualcosa di sbagliato in Gesù e fanno i paragoni. E iniziano a dire che i discepoli di Giovanni digiunano, fanno preghiere, invece i tuoi discepoli mangiano e bevono. E Gesù però ha subito la risposta sempre pronta, ma non solo sempre pronta, sempre molto profonda e molto razionale e vera. Dice: Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Cioè Gesù vuole far capire che il digiuno era in preparazione, era in vista dei tempi messianici, cioè la gente si preparava alla venuta del Messia, ma adesso il Messia è in mezzo a loro e quindi bisogna fare festa, c'è Gesù in mezzo a noi. Ma non solo, noi, Gesù è venuto a portare una mentalità nuova, ci è venuto a dire qualcosa di veramente nuovo, ossia col fatto che incarnandosi e diventando quindi facendosi carne e divenendo uomo, ha valorizzato tutta la creazione. La creazione è importante, è bella, è manifestazione della presenza di Dio e quindi la creazione è da ammirare, è da lodare, ovviamente lodare il creatore che l'ha fatta. E inoltre dobbiamo cercare non tanto di eliminare il cibo con il digiuno, ma di saperlo dare il Signore per il cibo che ci dà. Quindi è una prospettiva diversa quella che porta Gesù. Gesù dice che dobbiamo rinnovarci, rinnovarci nel modo di concepire tutto. E quindi come uno non prende un vestito nuovo e prende un pezzo di stoffa dal vestito nuovo per rattoppare il vecchio, perché così rovina sia il nuovo che il vecchio vestito. Ma invece uno prende un vestito nuovo e basta. Così noi dobbiamo rinnovarci completamente, non possiamo vivere la religione in maniera così raffazzonata con i nostri schemi, ma dobbiamo rinnovare il modo di concepire la vita. E in questo caso Gesù vuole far capire ai farisei, agli scribi, che devono rinnovarsi nel vedere proprio la realtà con gli occhi di Dio. Allora, oggi vogliamo valorizzare tutto quello che il Signore ci ha dato. Il cibo e la bevanda sono i mezzi di sussistenza, ma sono anche gli strumenti per poter vivere, ma rappresentano anche tutto il creato. Allora facciamoci la domanda. Io che relazione ho con le cose, con il creato, anche con il cibo e con la bevanda? Vedete, tante volte pensiamo alla vita spirituale come a una vita disincarnata, ma la vita spirituale non è la vita dello spirito, ma la vita di tutta la persona, corpo e anima, secondo il dettame dello Spirito Santo. Allora oggi vi vorrei invitare a una cosa forse strana vi sembrerà. Ma chiedetevi, io mangio e bevo secondo quello che vuole Dio? Sembra strana questa domanda, ma ve la siete mai fatta? Mangio e bevo secondo quello che vuole Dio, cioè mangio quello che veramente fa bene alla mia salute, promuove la mia persona, bevo quanto devo bere, bevo di più, bevo di meno, bevo cose magari che mi fanno male. E guardate che questo anche fa parte della vita spirituale. Quindi oggi concentriamoci, io che cosa mangio e che cosa bevo. Mangio e bevo secondo i dettami dello Spirito Santo e questo è il vero digiuno, non tanto privarsi del mangiare e del bere, quanto mangiare e bere secondo le ispirazioni dello Spirito Santo. Buona giornata.